musicista qui di Roma, Ubik Oli Pisces, Acre, nonché amico FM, sempre qui di Roma, Alessio di Roma, Fabiola, Federica che ci sta ascoltando, se non erro da Iesi, e pian pianino dirò tutti gli altri. Eccola qua, immancabile, Lucia Cagliazza in arte Lupsi da Udine. Allora, iniziamo queste selezioni di questo 30 settembre 2019. Le iniziamo con un personaggio che proviene dall'Austria. Si chiama Jürgen Weber come vero nome, ma noi diciamo da molti anni lo conosciamo artisticamente come Novis Vet, che è una parola boema che dovrebbe significare nuovo mondo. Personaggio eclettico, uno di quelli verso il quale si può coniare tranquillamente ed è stato fatto anche per lui il termine particolare di folktronica, cioè quel genere musicale che va ad unire soprattutto le vecchie origini neofolk di questo artista con tante declinazioni elettroniche applicate poi nei numerosi dischi che ha fatto, tante cassette a partire dal 97 e tanti lavori anche su album, CD fino ai giorni nostri. Giorni nostri si fa per dire, perché in realtà l'ultimo lavoro che abbiamo questa sera si chiama Mono ed è un lavoro del 2015. E quindi lo cominciamo a conoscere con le prime due tracce dal nome Fasilka Air e Perfetta Solitudine. Un momento estrecho me giro sorridenti e stanza sì, cani corti e stanza sì, cani corti e stanza sì. Yeah. Bene, Jürgen Weber, personaggio alquanto geniale, in attività da circa 20 anni con lo pseudonimo Novice Vet. Al momento questo è l'ultimo lavoro del 2015 che esce per la Roy Hum Roy, etichetta tedesca. E i più attenti avranno notato che, a dispetto della provenienza geografica, Novice Vet, e questo è sempre stato nei suoi tanti lavori, predilige cantare in spagnolo e talvolta anche in italiano. E nonostante che soprattutto in italiano magari il risultato finale non è perfetto, però nonostante tutto permane un certo fascino nelle composizioni, in questi quadretti così crepuscolari, molto IDM di scuola Borzo Canada, Wax, Aphex Twin, eccetera, appunto cantate in spagnolo, e che di tanto in tanto tradiscono anche la vecchia origine neofolk. Non a caso, tra le tante collaborazioni del nostro Novice Vet, ci sono quelle con Dernière Volonté, Mushroom Patience, progetto romano, molti se lo ricorderanno, Foresta di Ferro di Marco Di Plano, eccetera, eccetera. Molti riferimenti di pasoliniani, per esempio due album dal nome Cuori di Petrolio e Chapacua. Altro ottimo lavoro è Venezia, Rumore Armonio, insomma un artista che io consiglio caldamente di riscoprire e di andare in generale a conoscere meglio. Noi infatti faremo una retrospettiva, pian pianino manderemo tanti album di questo artista. Benvenuto a Antonio Zoviet da Firenze, in arte Omicidio, Nicola Locci della Sardegna, Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta, Silvia qui da Roma. È un duo, è vero, però il nome di lei, perché ce l'ho lei, ahimè, e questa è una grossa colpa, compare raramente. Lo andrò a cercare perché qui, in questo sito che ho qua sotto mano, non c'è, vado a vedere meglio. C'è lo pseudonimo Fräulein Toast, questo è lo pseudonimo, il vero nome non lo so. Grazie comunque a Isa per il puntuale richiamo. Bene, Novice Vet dunque, noi andiamo avanti e andiamo a concludere il nostro viaggio con She Passed Away, questo disco Anxiete, terzo lavoro per questo duo appunto proveniente dalla Turchia. Ci inoltriamo ordunque in territori minimal dark wave, una scuola anni 80 abbastanza sfacciata, ma l'importante è che sia fatto più o meno bene, con la freschezza che contraddistingue molti progetti elettronici di oggi. Ci ascoltiamo Yüksellidor Deniz e Agit. Ancora She Passed Away da questo disco Anxiete. Salutiamo di nuovo Silvia che ci sta ascoltando dall'entroterra di Roma, esattamente a Ostia, posto di mare. E si parla ancora di Noe Svette, il nome della fanciulla che suona con Jürgen Weber. Tra gli altri nomi è Mist. È Ulla Toast. Ulla Toast. Comunque tutto il mese di settembre è stato caratterizzato anche dal passaggio pressoché in maniera completa di questo disco Anxiety, che dovrebbe significare più o meno ansia da discoteca in turco. Terzo lavoro per She Passed Away. Esse Novi Svette si esprimeva in spagnolo, sovente in italiano, qui per la maggior parte si parla in turco, si canta in turco, e quindi la cosa è, direi, particolare e bella quando qualcuno si esprime in idiomi generalmente non usati nella musica. E fondare un progetto del genere nella situazione culturale turca odierna è anche difficile, e questo è un merito ulteriore per questo duo. Lucia vede anche, è riuscito a cogliere addirittura Smoltan Body e Bronski Beat in certi passaggi di She Passed Away, ma indubbiamente gli anni 80, anche quelli forse più lontani dall'oscurità di She Passed Away, nel DNA potrebbero anche esserci in She Passed Away. Andiamo avanti, questa volta si va in Gran Bretagna, si va con l'ultimo lavoro di Lamb, The Secret of Letting Off. No, The Secret of Letting Go, questo è il titolo esatto, me ne scuso. E questa sera ci ascoltiamo The Other Shore e Deep Delirium, anche qui due episodi abbastanza intimisti per i Lamb. We belong.